buonasera. Sì, buonasera. Ciao, scritta. Procedi con la gente. Beh, è una pippa. La gamba con frusci, che era di niente. E frusci e basta. Senta che andiamo bene, andiamo tutto. Ehi, andiamo bene, tu mi sei, non ti preoccupato. Ti mancherebbe altro, andiamo male. Boh. Oh, ya. Com'è questa radio, so? Ah, sembra buona. Buona e buona come... Radio 5. Allora, è perfetto, aspetta, ti dico. Ecco, adesso ho aumentato appena appena. Più forte adesso. Insomma, così così è. Ma, insomma, va bene, no? Ehi, la buglia. Oh, c'è un po' di propagazione. Poi un po' di propagazione, io dice. Parecchia ce n'è. Certo, è poco se ne impegni. Basta, e a vivere forte pure. Vabbè, vuol dire una giornata buona. Sì, infatti è così. No, se ne sente parecchio. Oh, basta, oggi si sente un bello pulito e forte pure. Non mi piace questo usando. È bella forte questo è il presidente di una versione versione 3 e c'è una ricezione bestiale. Sì, quello sì. Aspetta, è buona pure come ricezione. Aspetta, un po' buone. Aspetta, arrivi con chi. È bella chiara, Certo. E fa parecchio non accendevo, oggi ho dovuto accendere questo. È bello, tutto illuminato questo. Qua non mi piace a me. L'ho visto in vendita quello lì. So che ne vuole troppo. Costa, lo so. Questo costa troppo, ma la so. Siamo in sulle 400, 450 o 4, una cosa del genere mi sembra in corso. Infatti, io l'ho visto sulle 350, l'ho visto. E accostano, non bene, ma sono piccolini, non sono grandi, però è bello, sta tutto, sta anche lo splitto questo qua, trasmette il canale e si sente un altro canale, e viceversa, sta anche lo splitto questo qua. Sì, infatti, c'è anche quello lì, c'è. Purtroppo, ho detto il costa brutto. Un bel costa, so. Io l'ho preso, saranno 4-5 anni fa, l'ho preso questo qua. Non me lo ricordo, il lire mi sembra l'avevo preso. Bello, è un bel apparecchio, sta tutto, sta 7 bande, so, 7 bande sta tutto. Sì, già lo so, sì. L'ho visto in vendita, agli peccati a me. Anche il presidente Rico già in ordine. Versione 2, Rico versione 2, Rico 2 e versione 3, questo è tutto. Rico 2 versione 6, da 7 colori già. Gli puoi mettere i colori che vuoi, gli puoi mettere. Giri e ciambaguroli. Bello, certo. È tutto illuminato, è tutto illuminato. Bell'apparecchio, va. E poi già va bene questo qua. Sì, già va bene. Allora che c'è i numeri dei canali sono grandi, la frequenza invece di 500 giganti ce l'ha piccolo il top. Ma dov'è che vuoi entrare? Anche canale 6, sei tutto disturbato. Se no, non dare comprendere di ciò. No, non lo comprendo. Sembra in banda, sembra. e per mangiare. Adesso guarda, guarda un po'. Adesso va bene. Cazza bene, cazza. Ciucu ciucu. Adesso sto usando anche l'esterna, sto usando. Da Sirio. Beh, sta dicendo male, in banda ieri, come ti aspetta? No, il processore distaccato c'era, adesso l'ho messo. Già, va bene adesso. Va bene, tu come lo senti tu? Adesso lo sento un po' bene, però ogni tanto scarruccia. No, c'è qualche cosa, prova a fare per riprendere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senti anche il televisore. Dove? Sì, ma ti porti appresso anche un po' di QRM, ti porti appresso. È la figlia, anche la figlia sta provando. Ma me lo ne porto appresso. Sto usando la Sirio 5 ottavi, capito? Adesso ho aumentato la potenza. Ecco, me lo senti tutto. Ah, senti, io lo sento bene, però ogni tanto si porta il QRM appresso. Ah, buono, lo so, il QRM c'è, è forte, sentiamo l'opera qua. Non sai che ci abbiamo disturbi del sole, fino a domani. Non è precisa, non è precisa la radio. C'è un qualcosa, ma adesso il microfono. Con microfono normale adesso. Del cavolo, del 140. Adesso va bene, adesso ti ho sentito perfetto. Positivo, positivo, già va bene, dai. A voi, va bene, tutto bene. Abbastanza bene. Ma non ho testato l'antenna, prima con l'antenna della macchina era un casino. Con l'antenna della macchina infatti si rimane, no, e poi era basso, e per cui questo va bene, adesso va benino, va, così è tutto. Sì, adesso è chiaro, forte e chiaro. E poi vigiloso. Allora, cosa vuole raccontarti di bello? Da dove siete? Non c'è nessun altro, solo voi due. Non si è sentito altro nessuno, quindi... No, pagava, tutti in girella devono essere allora, a fare spesa. Tutti morti sono a Torino, tutti morti, bisogna andare via a San Paolo se c'è qualcuno vivo. Vabbè. Scusa lei, dai, oiuia. Prima saliva già l'hai sentito. Sì, già lo so. Alle 7:30 l'ho saputo io. La mattina. Ma no, mi ha telefonato un'amica e me l'ha detto. Il passaggio. Siamo tutti di passaggio. Purtroppo è così. Oddio, e allora? Cosa ti racconti oggi sto? Che cosa vuoi che ti racconti? Ti mangi secondo me la dottoressa, ti ho fatto chiedere che dove va. Ma devo fare altre cose. Qualcosa hai fatto, va. Ah, va bene. Allora, com'è questa radio? Buona, perfetta. 5. Ok, grazie a te. Allora, va bene, va. Cazzo, il secolo della riposo. Stavo riposando perché era stanco. E almeno, c'ero 7 mesi fermo era. Ma questo è quello che avevo riparato io? No. E anche quello che potrà bere qua. E questo era, è nuovo, però era sempre fermo dentro al cazzo. Perché non eravamo voi a chiacchierare. Sì, cazzo. L'altro giorno stavo cercando dei pezzi con un baracchino e ho trovato in una bustina il transistor originale di quell'apparecchio che ho riparato. Infatti te l'ho messo da parte. Quando ci vediamo te lo do, così c'hai il transistor di riserva originale, senza essere di quelli staccati dai circuiti stampati, capito? Va benissimo quello là, quello che è riparato, però. E invece l'originale è meglio ancora. Beh, conservalo ancora, può succedere. allora si è fatto il fare, è stato bene, no, è sempre avere sempre la scorta, no? E io ce l'ho conservato qua a casa, adesso ho trovato come ci sono delle vite e roba del genere, l'ho conservato. Sì, Antonio, ricordati del 13, mi ricordati. Già lo so che il 13 dobbiamo andare lì, basta che non scende l'aria come ieri, che ne sono rientrato, sembrava un pulcino, cazzo. Mi ho messo il giubbotto e pensava più giubbotto e jeans che io, da come ero pieno di acqua. Infatti oggi non sono uscito per niente, ma avevo un freddo addosso. Ieri. Ah, la precisa. Ah, c'è la festa la sua. Sì, perdi sabato e domenica. Allora c'è Antonella a farti compagnia. Ah, no, fai con la processione. C'è anche Giovanni. Oh, da chi? La freccia? Quello. Ah, non manca mai quello lì, Non manca mai quello lì. E allora già mi vedo, va, passando qua la guardia. Bene, bene. D'accordo. Sono che lo fa? Perché noi? Ehi, cazzo l'ha fatto, cazzo l'ha fatto. Insomma, lì sono Giovanni, no? Sì, che hanno più di me, va. Infatti, va. È più piccolo di me, come se va. Ho visto la foto, da lontano l'ho visto, alle poste. Vabbè, l'altro sposto, adesso non me che non lo credo. Beh, sta bene, sì? Sì, sta benissimo. Sto sta bene. Bene, bene, va. Avanti a te, canta. Vado qui già parecchie volte, sabato, quindi... quello che c'è di a mangiare, va, capito? Quando farà i pranzi. Ogni tanto già ci vediamo con Giovanni, cioè, va bene, era un po' vicino, se non ci sto andando. Perché non stava bene finora, poi stavo facendo visite di vini, che roba del genere, capito? Adesso non vale lì a posto, adesso mi devo recare a Lina per farmi il cambio del ticket da 02 a C03, devo passare e poi fare andare al capo, fare cercarmi l'avvocato e fare l'avvocato di cosa, di aggravamento tramite l'avvocato, hai capito? O conto vince. Grazie da fare allora a te, grazie da fare a te, bisogna muoversi. Infatti sto facendo quello, sto facendo. Piano piano si faccia le cose, quando poi sarà un momento opportuno speriamo bene, se me la vado bene, se non me la vado se la prendo in culo, se la prendo. Purtroppo mi ha fragussi fino a vederci, bisogna stare sempre apprezzatissimo. Otto? Giovanni, dimmi. Oh, è migliore il B5 di quello 4, Certo. Quale sta usando l'apparecchio? Il presente sto usando con l'M5. Ah, una bella radio, una bella radio. Oh, vabbè, questo c'è una reazione, una recensione speciale. Bella pulizia operativa, una bella radio, vai. Ho messo a posto l'M4, era lo spinotto, si è staccato un filo. Oh, e già funziona bene anche il 4, no? Sì, anche il 4 funziona bello, mi ha attaccato all'899, l'ho attaccato. Con l'899 dovrebbe uscire molto bene. Sì, infatti esce bene con quello. Infatti è così. Domani mi sembra che l'attacco anch'io, l'899. Perché se è dormito quello lì, è su un racchetto dentro la cazzola. Sì, da Edu. La dedica che sorraggeggia. Giulia, avanti a te. Grazie. Ehi, capo, non mi carico di altri apparecchi, che basta avanzare lì, certo. Uno è portato a cosa, all'uncino, vuole essere da casa sua, ogni tanto, quando non voglia di entrare, prima uscivo con l'antenna della macchina, a malapena mi sentiva, adesso già mi dovrebbe sentire con questa antenna, voglia. L'ho provato l'altro giorno, ho provato la Svezia, mi ha risposto Mosca, ma ora ho usato il telefono. Registrato. Dai, così, ma vabbè, ma avanti sul breco. Volevo chiedere una cosa. Quando è il funerale, capito, forse domani, però non so l'orario. Ma non lo sappiamo manco noi. A meno che non mi avvisano domani mattina a me. Ho confermo io San Sito alle 18. Alle 18? Sì, già. Confermo alle 18, alle 18. Come va? Manco io. Ma sicuro se me non ne fanno, quell'orario lì non ne fanno. Boh, già mi metto così alle 18. Boh, ma le strane non mi è fatta a rifugio, a rubuca, a risetta, a rifugio. Comunque buonasera a Bruno, e buonasera anche a lui. Infatti sembra strano a quell'ora, non chiedo alle 6. E infatti anche per me, perché il cimitero chiude alle 4, alle 5. Alle 16, non alle 6. Oh, prima mi ha detto alle 18, guarda adesso. Non è possibile, lo portano a cos'era, cosa la portata a cos'era, di lui. La sua oppure a Mazzelà? Non lo so niente, poi bisogna fare ancora. Tu, la sua oppure a a Mazzelà? Alessio meno un quarto chiude, ma con la messa di raggi Alzone. Dimmi tutto, non bisogna fare anche a me, Francisco, se c'è la messa lì, minimo dura un'ora, quindi si fanno le 7, poi il coso, giù il cimitero chiude alle 5 e mezzo, mi pare, se non mi ricordo male, ma se la metti. Poi non sai nemmeno a casa sopra, se a camera mortuaria, poi non si sa nulla, va, infatti, cazzo, nessuno sa cosa sta proprio. Ma Mario dovrebbe essere in camera mortuaria, dovrebbe essere, perché da casa sua lo portano via subito, il coso dovrebbe essere in camera mortuaria. Adesso sarà magari lì a forzare dietro, perché faccia cattolica, come si chiama con la vicina a casa sua, con la chiesa, che non mi ricordo. Ah sì, no, è quella. Capito? Comunque dovrebbe essere in camera mortuaria, perché casa sua è sigillata. Oh, sì. Sanno mai qualcuno si formerà, boh. a sapere almeno l'orario di principio e dove si trova, ecco, tutto. Purtroppo ha finito di soffrire, poveretto, anche lì va. Quello sì, ma mi sembra un po' eccessivo, cioè capito. Io mi ricordo che dice sto meglio. È stata baracchina, poi non pensavo che facesse una cosa del genere. Anch'io infatti, però sentivo quando le ho visto, dicevo che sembrava così, non era tanto soffriva ugualmente, e diceva che era operato, poi mi faceva molto male, ma non è che aveva un'altra patologia, forse si è aggravato anche per quello, no? È una cosa tutta strana, veramente non si capisce nulla, eh. Non ho capito molto come diavolo si sia alzato dal letto, abbia preso quella cosa là, si sia sparato, cioè, perché mi ricordo che aveva detto che sono molto debole, non è che sono da mio letto, non ce l'aveva sotto al letto, sotto il cuscino questa cosa qui, hai capito? Purtroppo siamo di passaggio. Va bene, vediamo un po' se Bruno rientra. Bruno rientra. Luca sta mangiando. Riprendito. Non c'è nulla neanche nel telefono. Stacciando male mattina, cazzo, giornale. A guardare la nuova per un po' che fa il mattino. No, non c'è niente nella nuova, non c'è scritto nulla, ma con il telegiornale non ho detto niente, figurati. È tutta una cosa molto strana, hai capito? Di solito quando succede qualcosa immediatamente lo vedi in televisione oppure capito? Lo mettono una nuova, ma non c'è scritto niente neanche oggi, ho già controllato io. Non lo mettono in giornale, quando succede queste cose non lo mettono in giornale, mettono nulla. Magari domani mattina ci sarà sulla nuova, adesso che da un po' che domani c'è la prigione, lo dobbiamo salvarlo, non siamo importanti noi, capito, a farci vedere in televisione, no. No, di solito quando c'è qualche fatto di cronaca a 1.4 lo dicono, capito, come è successo la politica del paese era, hai capito, che era ammazzato uno oppure quello che era stato in aria con la bombola, ma il balestrano non abbiamo messo in giornale, non c'è niente, nulla, solo come mi stesse. Gianmari, io devo chiudere, che devo andare a prendere la signora, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Antonello, salutami anche agli altri. D'accordo, ciao, signor, un po' di me, fate di pure. Ok, va Antonello. Ok, ciao, ci sentiamo, allora, alle prossime. Sta chiedendo tu, Gianmari? No, ancora no, va. Io mi ricordo molti anni fa, ai primi anni, certo, quando mancava qualcuno, per tutto il giorno toccavano i baracchini per nessuna ragione, e tutti in silenzio, e poi si andava a fare la compagnia quando si era vicino. Adesso invece quando manca qualcuno, sia da una parte che all'altra, per cui non sono tutti che possono andare, capito? Ma prima andavano tutti. Prima andavano ben gente. Ma io quando sono che non vado a fare nessuno da parecchio tempo, capisco, perché avevo assistito al funerale quando c'avevo la croce bianca insieme a Roberto Pinna, c'era questa capo, era a urla, piangeva, eccetera, eccetera, mi ha scioccato, capisci? Quindi a quel giorno ho detto, mai più ho detto andare a vedere qualche funerale, sì, hai capito? Mi ricordo quando era morto in tattica, quando era morto con la rata di Ciriera. Capito? E quindi neanche la Lamborghini è andata a accompagnarlo, ci vanno tagliati, ci vanno andati. E vabbè, allora sì, eravamo più giovani, magari qualche volta ci andava, quando era più piccolo, ma uno che questo volte sta lavorando, queste ore non può essere, è difficile andare, capito? Non si fa mentire. Però rispetto a 50 anni fa o 55 anni fa si faceva qualche rinforzo e andava, io me lo sono benissimo, anche di cose di gamba di legno, sono state sempre cose che io abbiamo accompagnato la famiglia Marco, era di Marco, e tutta la CD era di questo funerale che si tira a mare per immaginare. E anche quando c'è, quando è mancato anche il nostro critico e tanti altri anche, io sono sempre andato, certo che adesso dove fare, adesso non posso più camminare per cui devo fare, sarà un po' difficile, mi dispiace, però purtroppo certo che posso andare, ma si non può, come fa, sono rientrato? Ok, allora già ce la facciamo, il problema è che quando è andato in quel funerale lì a Icheri, sono rimasto scioccato, sono rimasto da quel giorno, io ho detto mai più, capito? Eravamo andati a recuperarlo, anzi un giorno mi ero in ambulanza, avevo cascinato a uno e sono andato a recuperarlo, a pezzi c'era la gamba da una parte, dall'altra, c'è tutto il scendi, non credo proprio, io ho detto, se non voglio mangiare, non devo stare a vomitare tutta la notte, tutto mi piace con l'ambulanza. Avanti Bruno. Ci viene un bel male 5, subito da manuale non ci vanno a parcheggiare. Scordatelo, perché poi ci sono i vigili urbani e i carabinieri, quindi non sai che ci sono le ronde. Perché i vigili urbani capace che se parcheggi ti staccano il vetro della macchina e te ne fregano quello che c'è dentro. Perché è pieno di tossici quella zona, adesso. Quindi, se si è trovato qualcosa lì, il coso in via Lombardo oppure in coso Vicco. C'è la piazzetta, c'è, che poi scendi per via San Donato, vicino alla dove abita Padre Francesco, in pratica, forse solo lì puoi parcheggiare, tutto il mio parcheggio. comunque io mi ricordo che suonava la sirena sempre intorno alle 5:30. Io al cimitero, poi adesso è cambiato tutto, c'è, sono gli orari, capito, poi una volta dovevano proprio verso il mare, lì mettevano le casse provvisoriamente, finché non ritumulavano, capito. È un problema. È un problema per il paziente, io anch'io a camminare a piedi, lui è un bel fatto, e mi piace purtroppo, ma sta fatto andarci, il pensiero mio c'è, con tutto il cuore, come ho fatto a tutti gli altri amici, e quando lo dispone, potevo fare. E così loro lì, dove sono solo partiti, sono fatto camminare, quando mi sono accettato, mi sono fatto male. E adesso lì è riuscita, quando sta uscendo dalla chiesa, ho fatto il campionale, ho fatto da noi, al cimitero, andavo al cimitero, la macchina mi metto vicino vicino al cimitero, a salutarlo, vado lì per il campionale. E lui mi sta accettando tutto. È un po' brevato, è un grafo, sta gatto, è in quella zona, oh, è difficile, è difficile, per carità. Va bene, va, bruschino, stanno chiamando, perché la cosa qua, se siamo più bruschini di me, tanto, faccio sentire il mio ciao Antonella, anche a te. Ciao Giovanni, ci sentiamo, stammi bene, buon corretti, buon tutto. Ci sentiamo domani sera alle 20. Ah, che buono. Ma poi è andato il telefono? Sì. Ora ancora ci sei. Ora ci sei. Ora non c'è più la sua domanda. Io ti sento bene, perlomeno. 9:15, 9:20. D'accordo, ciao, ci sentiamo, stai bene, buon corretto e buon tutto anche a te.